troverò informazioni sull'amore e sul futuro che non ho, già lo so. Io vivrò in questo oroscopo continuo di bugie, senza più filo connessione, senza sesso, se un errore patologico. Invece io sono solo paranoico, troppo ironico, paranoico, troppo ironico. Cercherò, troverò sempre il lato positivo delle cose, anche le spine tra le rose, oppure il dubbio delle spose sull'altare. Io l'amore in ogni forma voglio respirare, paranoico, poco ironico, paranoico, solo paranoico, perché non so stare in equilibrio come il sole all'orizzonte, che non smette di danzare tra le nuvole e le onde. Non so stare in equilibrio come la luna e le sue stelle, che ci graffiano la pelle senza più fare rumore. Penserò al passato come un fuoco mai già spento, lui per sempre il mio maestro, tra le finte e finte ansie del domani, mi farò spazio nei tramonti di domani. Ma paranoico, poco eroico, paranoico, solo paranoico, ah, ah. Non so stare in equilibrio come il sole all'orizzonte, che non smette di danzare tra le nuvole e le onde. Non so stare in equilibrio come la luna e le sue stelle, che ci graffiano la pelle senza più fare rumore. Non so stare in equilibrio come la luna e le sue stelle, che ci graffiano la pelle senza più fare rumore.